24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca! Se invece si affossa anche questa possibilità di riforme, beh, allora diventa davvero delicato immaginare che ci sia uno spazio di speranza per questa legislatura. Si sente più Goldrake, si sente sempre più Goldrake, cari italiani. Renzi dice, insomma, questa legge elettorale è un po' raffazzonata, o si fa oppure tutti a casa, questo è il concetto. Titolo del Corriere della Sera. Io sono arrivato qui al mattino alle 5:30, come al solito, prendo il Corriere, legge elettorale, nuova frenata. No, ma come? Ci eravamo quasi. Siamo nella 39esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Eravamo lì. Zac! Ci vuole la barda spaziale ormai, cari italiani. Va bene, questa è 24 mattino con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Carmelo Lauricella che ci segue questa settimana in regia e il Parlamento, Goldrake, apri il Parlamento, va. È venuto il Parlamento. Parlamento. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ho detto apri il Parlamento, mi sono un po' montato la testa. Allora, sono felice di salutare Aurora Lussana, direttore della Padania. Eccoci qua, Aurora. Com'è? Eccomi qua. Eccoci. Buongiorno a te, Milan, e come sempre buongiorno agli amici di Radio 24. La seconda radio più bella, d'Italia. Dopo Radio Padania. La terza, dopo Radio Padania e Radio Yes, di cui ti presento Mario Adinolfi, noto conduttore. Eccoci qua, Mario, Marione, buongiorno. Ale, buongiorno. Ale. Tutti già gli ascoltatori già felici. Oh, c'è Mario Adinolfi, bello. Lo sai, no? Lo sai, è il giorno bello della settimana questo. Sì. Allora, c'eravamo quasi, porcaccia la miseria, c'eravamo lì. Aurora, si sono bloccati sul premio di maggioranza al 35, al 38%, tecnicalismi che Mario Adinolfi conosce alla perfezione, che noi invece tutti ignoriamo volutamente, no? Per parlare di cose più serie. Che Goldrake l'aveva fatta facile. Mannaggia, che miseria. Quindi... Siamo stato Renzi in una commissione parlamentare, nella prima commissione affari costituzionali della Camera, Renzi. Che succede? No. Volano parole grosse? Volano... No, non ti accorgi neanche, passa l'emendamento e sei fregato. Ah, così proprio track! Sì. Ho capito, ma per un emendamento c'è uno che lo deve proporre, c'è quello che lo deve firmare, c'è quello che lo deve votare. Certo, deve avere i numeri per presentarlo, poi va in aula, c'è il voto segreto. Vabbè, il Vietnam. Caro Mario Adinolfi, ha venduto la pelle dell'orso troppo presto, il buon Renzi, su queste riforme? Ma guarda, Renzi penso abbia un'opzione che si chiama tecnicamente win-win. Se fa le riforme si ascrive il merito di averle fatte. Se non ci riesce, oggettivamente non credo che ne esca male. Lui ci ha provato, il sistema l'ha bloccato, gli danno le elezioni. Lui l'ha detto chiaramente, o fate le riforme o finisce la legislatura. Appunto, ti sembra... Si va a votare, io non so chi è che prende più voti di Renzi. Per cui... non vedo la sconfitta per Renzi. Penso la mossa sia stata molto intelligente. Ma che comunque dici? Ti sembra una mossa da leader o una mossa un po', come dire, di quello che sa in questo momento di poter fare la voce grossa, no? O così? Beh, insomma, oppure... il leader sa di poter fare la voce grossa, insomma, quindi le due cose stanno insieme. In questo momento lui ha avuto la mossa, diciamo così, abbastanza spregiudicata di andare da Silvio Berlusconi e in 10 minuti chiudersi un accordo. Che poi ci avesse delle resistenze interne al partito, perché quello è l'elemento centrale, il problema è il rapporto dentro il PD, lo sapeva, direi che insomma se in cassa, cioè se non muovono niente, secondo me ci arrivano a Dama. Il problema è quando cominci a muovere, cioè muovi la soglia di accesso al premio di maggioranza al 38 e lì si litiga, ricominci a discutere preferenze e si litiga, sì. Cambi i livelli di sbarramento per i piccoli partiti e si litiga. Io fossi Renzi andrei dritto sulla strada dell'accordo originale del 18 gennaio e poi chi non lo accetta se ne assume la responsabilità. Capito Aurora, così si fa. Così giusto. Intanto ci arrivano due messaggi, Padania ladrona, questo è un messaggio così, punto. Vabbè, Aurora, io te ne devo dire. Non ho mai rubato neanche una penna. No, vabbè. Non ho mai rubato neanche una penna. Dai, alle elementari. Perché ho fatto il collegio dalle suore. Sono cresciuta con quell'inquietudine lì che un giorno è sparito un righello. Ci hanno aperto le cartelle. Mi è venuta addosso un'ansia. Questi metodi punitivi mi hanno segnato a vita come una lettera scarlatta che mi porto sul cuore. No, comunque, no, però Renzi. Sì. Si vede proprio di andare al voto di qua di là, però non è che Renzi è già sul colle più alto di Roma, non è che al Quirinale decide chi c'è sul Quirinale, mica Renzi, quando finisce la legislatura, dai. Questo sì, dai, su, hai capito? Marione, dai. La novità che non percepisce la simpatica direttrice è che al Quirinale comincia ad avere un po' di simpatia per questo Renzi. È cambiato un po' il vento. Vabbè. Non so se avete seguito. Cominciano a parlare fiorentino anche al Quirinale. Si è messo a spingere soffiando il vento delle vene della riforma. Oh, ma l'uomo che più, ma scusa Mario, l'uomo che più sta lontano da Roma e più riesce a conquistare Roma, no? Renzi, uno che proprio Roma appena ci mette piede, tac, salta sul Frecciarossa e via, scappa subito. Eppure riesce a guadagnare crediti a Roma. Che dobbiamo fare? Così si fa, cioè che vuol dire? Deve star lontano. Non deve infilarsi dentro al casino romano, questo penso che piaccia anche alla Lussana, insomma. Cioè, diventare un romano, lo dice un romano, insomma, sì. In termini politici è seguente dispregiativo. Ti infili dentro questa caciara, però allo stesso tempo avvolgente, che tutto sommato ti piace, ti fa sentire potente, e alla fine pensi che non fare le cose sia meglio perché persisti in quello stato più a lungo. Capito? E lui dice no, io mi gioco l'osso al collo, vediamo un po' che succede, va a rompere le scale un po' a tutti. Non sto ragazzino non è stupido, non insomma, è stupido. Allo stesso tempo non è, diciamo, in questo momento almeno assimilabile a quello che abbiamo visto finora nei palazzi. Hai capito romani, Aurora come ti prende Roma? Capito Aurora come ti prende Roma e poi ti corrompe? Almeno questo dovresti essere contenta, no? Dovresti essere battutina. No, vabbè, ma l'identità fiorentina di Renzi è un valore aggiunto sicuramente. Però non so quanto sia rispettoso dell'identità di tutti i popoli. Comunque vabbè, io a Roma ci ho lavorato, non è solo, cioè, a dire, non è che ti sei fatta corrompere di questo ti sei fatta corrompere da questo ambiente così. Sicuramente. No. Mi corrompono altre cose, Milan, non si può dire. Io sono attratta da altre robe. Aurora, che dobbiamo fare? Ma non è che la polenta è brasato. Dai palazzi, però a differenza di Renzi, siccome ci sono stata, lì bisogna stare attenta appena ti dire che vai in commissione e ti fregano. Va bene. E così. Va bene. Allora, sentite Letta, ragazzi, ogni volta che Letta sulle riforme, sentite. E noi abbiamo bisogno in particolare di una nuova legge elettorale e abbiamo bisogno in particolare di risolvere il problema del bicameralismo perfetto del nostro paese. Bicameralismo. E io sono fiducioso del fatto che l'iniziativa che i partiti principali hanno deciso di assumere, in particolare il mio partito, il Partito Democratico, Mario, ha deciso di assumere. Vuoi. Interviene per una nuova legge elettorale e per sciogliere. È divertente perché quando lo ascolti capisci che quello che dice è il contrario esatto di quello che pensa. No, quando lui dice voglio la legge elettorale, speriamo che non la provi mai. Speriamo che si affossi tutto. Quando dice ma Renzi fa bene a fare registria, pensa mannaggia a Renzi, capito? Ma il tono è è proprio una questione di comunicazione. È proprio, esattamente è il contrario di quello che dice, quello che pensa. Vabbè. Sì, diciamo, ha questa verve che magari no, è un po' quello. Però, ma insomma, gli italiani lo vogliono il bicameralismo perfetto, perché nel 2006 hanno votato contro la fine del bicameralismo. Ma gli italiani non sanno neanche cos'è il bicameralismo perfetto. Gli italiani non ci capiscono niente, Luciana. Gli italiani non sanno ma nulla. Giustamente, gli italiani sanno giustamente. Che il Milan ha battuto il Cagliari, capito? Ecco, ti saluta caro Mario, uno che scrive saluti a uno juventino, un grande juventino. Mamma mia, un salutone a Mario, forza Juve, Moreno, sì. mamma mia. Forza ragazzi, che grande stagione. Vabbè, insomma. Io guarda quanto godrei se la Roma vincesse lo scudetto quest'anno. Sì, cioè. Bello di papà. Ma proprio vedere Adinolfi che va sui tram al mattino a Roma con tutti. Ah, Juventino! Ah, Juventino! Stavo purgato! Cioè, che fai? Sono tre anni che aspetto, sai che sono tre anni che conservo i miei tweet per potermi sfottere sulla Juve. No, tu lo sai che il giorno in cui dovesse vai vincere la Roma lo scudo, ma che fai tu? Puoi prendere il tram il giorno dopo. Lo ammetto, sarà dura. Allora, l'83. Ma uno di Roma che ti fa Juve, ma non sì, è aiutato da qualche normativa. Ma non lo so, ma già no. Ti sembra normale, infatti. No, allora. È bello giocare contro vento, Luciana, dovresti capirlo. Tu per esempio, Aurora, dovresti tifare Palermo, ecco, una roba così. Tipo Palermo. No, Napoli. Napoli anche, sì. Ecco. Sì. Invece che squadra tieni? L'Atalanta. Ah, ma orca. L'Atalanta manco il Milan, capito? Delle valli bergamasche, insomma, studiato dalle suore e quindi, insomma, è rigorosa in questo. Allora, sentite, Scaiola è una persona per bene, sentite, l'abbiamo preso dal sito del Corriere, qua, Scaiola, che dice? Se dovessi acclarare. No, ma no, questo è acclarare. Che la mia abitazione nella quale vivo. Vabbè, ma questa è la famosa frase insaputa. No, sono una persona per bene, sentite un po'. Il processo ha certificato la mia estraneità. Processo ha certificato che io sono una persona per bene e ha certificato la mia verità. Io non voglio più parlare di nulla che abbia a che fare con questa maledetta casa. Non ne voglio più parlare. Oh, ha anche detto nel giro di due mesi, cara Aurora, c'è un signore interessato, me ne disfo di questa casa. Oh, finalmente, no? L'italiano. Le fa schifo, no, gli fa schifo, la vende. Benedisfo ed è pronto a ricandidarsi, ma dopo il traffico io voglio parlare un pochino di Scaiola, vogliamo parlare anche di Mastrapasqua che oggi fa un'intervista a Repubblica e dice non sono mica un mostro. Viva Mastrapasqua, impara a leggere le misure camerali. Ecco, impara a leggere le misure camerali. Allora abbiamo una bella segreteria telefonica in cui i nostri ascoltatori si cimentano anche su Aurora Lussana e Marione Adinolfi, tra poco. 24 mattino. La democrazia, ma che bella sinfonia. E ho imparato il mestiere a cantare, ma con i mampo già su de tre. Mozione parlamentare dell'onorevole leghista Caon contro le nutrie. Per protesta le nutrie hanno deciso che marceranno su Roma. La polizia è già mobilitata. Si temono scontri con le black nutrie. All'ombra di un fetido pantano, un grosso rospo ingravidò una rana. Da quell'incontro incestuoso e strano nacque il ministro delle finanze. Dovrebbero togliere il cavalierato a Berlusconi per indegnità. Dico che per guadagnarti lo stipendio ci avveleni tutte le mattine la giornata e questo è veramente vergognoso. Mistero, come fa un maiale ad autodecapitarsi e poi a spedire la sua stessa testa alla sinagoga? È un mistero. Ciao Alessandro, senti, un piccolo consiglio, io ti ascolto volentieri, però quando sento la Lussana io non ce la faccio, io ti prego, io mi vergogno di essere padano quando sento parlare la Lussana. Adinolfi, Non credi di stare esagerando parlando sempre male della gente? Beh, io ti do un consiglio, vai a riguardarti bene il film Il buono, il brutto ed il cattivo, quella famosa battuta di Tuco che diceva: quando quelli grossi come te vengono buttati giù fanno tanto rumore. Volevo dire a Minolfi che Marione fa rima con coglione. Ehi, grazie. Eccoli lì, sistemati, uno, ecco. E uno, due. Vabbè, pavidi, pavidi, c'ho il numero di telefono che è pubblico, chiamino me invece che romper le balle. Come pubblico? Cioè, il cellulare? Pubblico di merda. No, nel senso, lavorando pubblico in un quotidiano. Guarda, questo è partito già. Pubblico di merda! Leggendo nella mente di Adinolfi il nostro Carmelo Lauricella. Mi difende la Lussana, cosa ha fatto mai di male? Adesso francamente io lo capisco e d'altro da uno. No, ma si sa che posso uno capire, tutto a posto. No, ma tutto, ma figura che l'odio. Fatto di male. Ma no, chi ha fatto di male? Ma no, ma la nostra segreteria è così. Ma l'odio, il disprezzo è l'odio è il male connaturato nella natura umana, ci mancherebbe, uno mi odia, è legittimo. Però non chiami la segreteria di Milan, chiami me in redazione alla Padania, anzi venga a trovarmi in via Bellerio 41 Milano, che sono lì tutti i giorni, e così dimostra di non essere un pavido. Oggi non ci sono perché vado, indovina dove? Nelle zone prima terremotate e poi alluvionate del Modenese, di cui non frega niente a nessuno. Andiamo a Solara di Buonporto, in un'azienda, pensa te, prima terremotata poi alluvionata, un'azienda agricola a Cusumaro, poi andiamo a Bastiglia, sempre al Modenese, vediamo un po'. Ma ne abbiamo parlato, insomma andate, se avete coraggio, in via Bellerio 41 a sfidare, e magari dite vieni fuori Aurora, vieni fuori se hai coraggio, e vi sfidate all'arma bianca. Marione, vabbè, io tra poco sono sul tram, invece se volete sapete il tram numero 8 numero 8 di Roma. Tram numero siccome alla gabbia mi hanno detto sei il primo che veniamo a prendere, adesso arriva la telefonata di quello che dice faccio il botto grosso, insomma io poi chiederò la scorta. Com'è il buono, il brutto e il cattivo? Ce l'hai presente quel film? Non lo so. Va bene, Mastrapasqua, allora, che dobbiamo dire di Mastrapasqua? Fa un'intervista a Repubblica, dice non sono il mostro, non ho 25 incarichi, non sapete leggere neanche le misure camerali. Il Sole scrive che ne ha solo 9, solo 10. E poi che dice? Rimango qui, sono sereno, niente dimissioni, e vabbè. Perché hai detto viva Mastrapasqua, Mario? Ma perché poverino? Cioè, ma come poverino? Ai disastri fatti da tanti, Mastrapasqua bene o male ha rimesso in sesto i conti dell'Inps, è uno insomma che alla fine per tutti questi incarichi guadagna sì una milionata di euro più o meno, ma cioè quello dell'Eni da solo guadagna 6, insomma il... indicare in Mastrapasqua il cattivo, il male, personificarlo come uno da esecrare, non che, sinceramente non riesco a capire perché, qual è il problema, dov'è la questione, perché fa 9 lavori a cui è chiamato, non è che lui si è preso la briga di andarsene a cercare, perché gli intrecci dell'Inps hanno a che fare con quelle materie, francamente non capisco perché è stato indicato come simbolo malevolo di questo paese, perché ha a che fare con le pensioni, quindi magari è un po' facile giocarsi questa partita qui, non fa bene il suo lavoro, l'Inps è andata dritta con Mastrapasqua, quindi non riesco francamente a capirlo, è come al solito la gente che non sa, cioè sa solo seguire i più ferai magici nella sua colossale ignoranza, indica un nemico e dice vai addosso al nemico, tutti contro Mastrapasqua, quale cattivo, ma è la stupidaggine, la cretinaggine della gente, non la realtà. Aurora, la Padania che fa su Mastrapasqua? Qual ma è? Mi hanno chiesto di pubblicare l'agenda anche di Mastrapasqua, ce l'ho qua la Padania. Dov'è? Fammi vederla. No, oggi abbiamo l'agenda diretta la di Saccomanni, che è Angel il ministro Brai. Il ministro Brai, ma che c'è? Il ministro dei beni e attività culturali del turismo, il nostro paese magari insomma... Eccolo qua, c'è sempre qui se si chienghe quello insomma. Il tour filo immigrazionista qua è importante. Poi qui Enrico Letta, qui Massimo Brai e qui Maurizio Saccomanni, ma invece... E volevano anche pubblicare, quindi tu sei uno di quelle che dice contro Mastrapasqua. No, nel senso so che sta creando un po' di imbarazzo a Letta, quindi sicuramente è un burocrate straordinario, perché insomma voglio dire adesso al di là di tutto che insomma le pensioni, il sistema pensionistico non l'ha distrutto Mastrapasqua ma l'hanno distrutto i ministri. Sì, ho capito, ma vedo qua, guarda pagina 6, Marione, della Padania. caso Mastrapasqua, la Lega a casa o non paghiamo più l'INPS. Ecco. Ma non è vero, ha distrutto l'INPS, ma non è vero, altri avevano distrutta, con Mastrapasqua i conti dell'INPS sono andati dritti, cioè qual è la colpa di Mastrapasqua? Io non l'ho capito, cerco di capirlo ogni volta, mi fa qual è la colpa, Aurora? Cosa ha fatto di male Mastrapasqua? Cosa ha fatto di male? No, abbiamo riportato ovviamente la dichiarazione del capogruppo della Lega in Senato. E vabbè, se però si dice così vuol dire che avrà pensato che fa qualcosa di male. Cosa? Cosa vorrei capire? L'imbarazzo le die, quello Mario, le 10 poltrone, le 15 poltrone, le 20 poltrone, quello è il dato di fatto. Ci scrive un ascoltatore: sono un leghista che tifa Napoli. Ecco, l'abbiamo trovato. Poi Aurora ti passiamo il numero di telefono, mi fate un'intervista, una bella prima paginata sulla Padania. Grazie a Mario Adinolfi, Radio Yes alle 8 e Aurora Lussana, direttore della Padania. Alla prossima, giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Le 7 e 18 minuti. Eccoci qui, cari ascoltatori. Forza! Come sempre voglio dare lo schema allegri per tutti. Dai, dai, la mia voce se ne va. Dai! Ecco, voglio morire qui, lasciare tutta la voce. Dai! Sul microfono. Forza italiani, che bisogna andare a lavorare. Di che parliamo oggi? Oggi avremo ospite il sindaco di Vicenza alle 8.15. Il sindaco di Vicenza ha fatto un discorso che è passato un po' in sordina, a dire: io sono pronto a pagare per tutti i bisognosi, quelli che hanno l'ISEE basso, le bollette, i contributi, eccetera. Ma in cambio queste persone diano qualcosa alla comunità, magari dei lavori socialmente utili. La vicenda è scoppiata anche per le polemiche di bollette pagate per un campo rom, dove il sindaco ha detto: pago, ma loro facciano qualcosa in cambio, lavorino per la comunità. E parliamo di questo con lui e poi parleremo anche della vicenda Mastrapasqua, dei tanti incarichi doppi, tripli, quadrupli a volte per i super manager di Stato. Questo alle 8.30. Questo è il menù. Ora andiamo a sfogliare i giornali. È martedì 28 gennaio, intanto i titoli per il Sole 24 Ore: borsa, Europa in rosso, alta tensione sulle banche, così apre il quotidiano, mentre per il Corriere della Sera: legge elettorale, nuova frenata, gli emendamenti sono circa 300 alla legge Italicum. La Stampa: riforme, l'affondo di Renzi, questo è il titolo. Renzi, avete sentito, ha detto: o le riforme o si vota, tanto che il manifesto lo mette giù pesante, così. Don Matteo: Renzi alza la posta e minaccia, se salta l'accordo, legislatura senza speranza. Per Repubblica, e partiremo da qui, parla Mastrapasqua, il presidente dell'INPS: resto, non sono un mostro, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero invece: la vicenda Electrolux in prima pagina, taglia i salari per non chiudere. Electrolux presenta il piano, stipendi dimezzati, pause ridotte per 3 impianti su 4. E anche l'Unità è su questo tema in prima pagina: Electrolux sporco ricatto, questo è il titolo. Per Libero: la vicenda Scaiola e Berlusconi accomunate, innocenti a loro insaputa. Libero mette con gran risalto la notizia di un ministro marocchino che dice a un documento che prova come Ruby fosse maggiorenne quando incontrò Berlusconi. E anche per il giornale: Ruby inguaia i giudici. Il Fatto Quotidiano: Scaiola non è reato, ma la casa se la tiene. E il Secolo XIX, il ritorno di Scaiola. E questi alcuni dei titoli, ma io partirei proprio dal caso Mastrapasqua, il caso che è sul tavolo di Enrico Letta dopo la vicenda che la Procura di Roma

Allora, vicino al Natale era successo questo, che siccome queste famiglie di Rom e Sinti vivono nelle loro roulotte e nelle loro case mobili, però sono collegate all'energia elettrica, attraverso un contatore familiare con il loro contratto, e devono pagare l'energia elettrica. Siccome alcune di queste famiglie non erano riuscite a pagare l'energia ed erano al freddo perché erano stati staccati i contatori, per quelle famiglie, per l'appunto di residenti, cittadini con bambini o con anziani ammalati, io non me la sono sentita di non pagare. Con un'ISEE quasi vicino allo zero, e io non le ho lasciate a freddo, perché certo, non voglio avere sulla coscienza un bambino che mi muore di questo. Certo, però sindaco, il concetto di dire però fate qualcosa in cambio per la comunità. Allora, la mia tesi, che poi non è solo mia, perché nel campo del contrasto alla povertà, con il ministro Giovannini, grande progetto sia di inclusione, e questo concetto si farà avanti anche a livello nazionale, ma intanto i sindaci, sa, a volte sono dei pionieri e aprono strade. Io dico, sei un cittadino? Hai bisogno? Sei un povero vero? Perché poi io, quando faccio delle agevolazioni, passo i nomi alla Guardia di Finanza, perché certo, è giusto che vengano fatti dei controlli. Un conto sono i poveri e un conto sono i falsi poveri. Ma se tu hai bisogno e non sei inabile al lavoro, quindi non sei un bambino, non sei un anziano, non sei un ammalato, fai qualcosa, hai braccia buone, finché non trovi lavoro e diventi autonomo, ritrovi la tua autonomia, beh, se la comunità ti ha aiutato pagandoti la bolletta, aiutandoti a pagare l'affitto, dandoti qualche quattrino per vivere, per sopravvivere, beh, anche per la tua dignità. Beh, sì, abbiamo dei progetti di lavori socialmente utili, li fai, attenzione ai parchi, eccetera, ti metti volontariamente a disposizione. Però lei ha detto, lei il sindaco dice volontariamente, però lei ha fatto un passo in più, ha detto se non lo fai io non ti do più un euro. Se non lo fai e non sei una figura a rischio, quindi non sei un bambino, non sei un anziano non autosufficiente o comunque con delle problematiche, beh, allora se non c'è questo concetto di reciprocità, allora siamo nell'ottica vecchia, stantia, dell'assistenzialismo, che ha prodotto tanti problemi nel paese, che si chiama assistenzialismo. Però no. I Rom, per esempio, ha detto, non è che ci può obbligare, ecco, i Rom vale per tutti, perché lei questo concetto lo estende a tutti, dicono, ma non ci può uno obbligare a lavorare, cioè se il welfare prevede che c'è un aiuto a un bisognoso, non lo si può vincolare al dovere di dare qualcosa in cambio. Insomma, è evidente che io non mi posso nel comune di Vicenza fare delle leggi tutte mie, i comuni devono rispettare le leggi, però ci sono possibilità varie nel rispetto della legge. Intendo dire che le priorità, le attenzioni, il dialogo, il percorso personalizzato, a che cosa mirano? All'inclusione sociale, non ad assisterti per assisterti e tu stai lì a girare i pollici. Noi qui saremo piuttosto rigidi da questo punto di vista. Sì. E arriverò fin dove la legge mi permetterà di arrivare. Perché lei può arrivare a negare a uno che ha l'ISEE zero, che non è un finto, uno che veramente è un bisognoso, può negare l'assistenza, magari pagare la bolletta, e se questo si rifiuta di lavorare. Cioè, mi faccia capire quali margini ha come sindaco per interpretare la legge. Posso insistere molto. Se è una persona che non è, ad esempio... faccio un esempio, uno dice ho la mia casa, pago l'affitto, non riesco a pagare l'affitto perché non lavoro, ok, ti dico io ti aiuto a pagare l'affitto in questo momento di difficoltà, il tuo ISEE è molto basso se non addirittura a zero, allora ti chiedo di fare un lavoro socialmente utile come volontario. No, mi rifiuto. Bene, allora io non ti do i soldi per la casa, perderai la casa e vai all'albergo cittadino. Cos'è l'albergo cittadino? È un luogo in cui i senza tetto, i senza fissa dimora, coloro che non hanno più la casa, trovano un letto al caldo e una doccia dalla sera alla mattina questo, alle 7, poi uno deve uscire. Certo, questo punto, secondo lei è un discorso... Gli elementi vitali nei confronti di quel signor Rossi li assicuro per legge, ma non quella comodità di rimanere nel proprio. Quindi non assistenzialismo, inclusione, scambio, io do qualcosa a te, tu dai qualcosa alla comunità, basta con l'assistenzialismo vecchia maniera. Garantendo ovviamente i diritti fondamentali della salute e della vita, ci mancherebbe. Senta, sai che molti vicentini in questo caso, ma insomma molti cittadini hanno protestato perché questi 60.000 euro all'interno, ripeto, di 5 milioni pagati da tutto il comune per i bisognosi, ma questi 60.000 euro ai Rom sono stati digeriti poco da molti a dire. Sì, perché alcuni cittadini, forse anche malinformati, e poi sappiamo anche bene, diciamocela chiara, che molti dicono, ma insomma, sti zingari, sì, sono lì, sono poveri, ma sono poveri? Certamente molti di loro hanno avuto a che fare con la giustizia, sono ladri, a casa mia sono venuti a rubare, ma allora che fa il sindaco? Aiuta coloro che rubano? Allora, piano. Allora, io ho aiutato le famiglie di cittadini vicentini che avevano bambini o malati, anziani, nelle roulotte, eccetera. Qualcuno dice, e io su questo non sono d'accordo, sì, va bene, il regolamento vale per tutti, ma non per i Rom e per i Sinti. Questo sarebbe ovviamente una discriminazione razziale. Mi porta a questo, diciamo, perché li hai aiutati? Rispondo, perché sono cittadini. Però lei stesso dice effettivamente qualche problema, probabilmente ci sarà, non saranno tutti falsi, non saranno tutti veramente poveri, come dicono. Lei dice io li aiuto, poi passo alla Guardia di Finanza, basta, il mio ruolo è finito. No, non solo, ma l'ente gestore dell'energia dovrebbe, a mio avviso, fare anche alcune altre azioni. Ad esempio, non riesci a pagare l'energia elettrica, ma hai un'automobile? Sì, ho un'automobile. Ah, se hai un'automobile vuol dire che riesci a pagarti la benzina, riesci a pagarti l'assicurazione, quell'automobile ha un valore che ha. Beh, un momento, se non paghi un elemento fondamentale che è l'energia elettrica per la tua casa, beh, ti faccio un fermo amministrativo della tua auto, quindi non puoi usare l'auto fin tanto che non avrai pagato. Insomma, una gerarchia dei doveri di spesa, non so se mi spiego. Ecco, a volte questo non è sempre stato fatto, perché è più semplice anche per la burocrazia comunale o statale che sia. È più semplice, via, ti do qualcosa, fatti coraggio. Comunque, non rompo tanto le scatole. Sindaco, per concludere, sindaco Variati, devo dire tra l'altro, già arrivano tantissimi messaggi. Io gli dico onestamente, alcuni criticano, come le ha detto molti cittadini, insomma, per i Roma, però devo dire che la maggior parte, lo so, grande Achille, Antonio ci scrive, è il miglior sindaco del mondo, bravo sindaco, sono col sindaco. Non glielo dico. Molti invece criticano la scelta di dire insomma perché ha pagato ai Roma, ma perché ha pagato ai Roma? Sono cittadini, e che faccio? La discriminazione. Ieri era il giorno della memoria. Noi dobbiamo sempre creare ponti, non spaccare la comunità tra noi e loro, attenzione, è molto pericoloso. Questo certamente. Mi dica in conclusione, cioè, lei mi ha detto che all'interno dell'ANCI anche si sta inserendo e anche coinvolgendo il ministro Giovannini su questo, cioè potrebbe essere un principio messo nero su bianco anche sulla legge, io aiuto i bisognosi, ma un welfare non più assistenzialista ma inclusivo, per cui chi riceve qualcosa deve per forza dare in cambio, se no... l'Italia è solo assieme alla Grecia, nella comunità europea, a non avere un salario, diciamo un salario minimo di inclusione. Cioè, se uno non ce la fa, ha perso il lavoro, cioè, un reddito minimo di vita, vitale, in altri paesi c'è. Ebbene, questo progetto che dovrà essere portato avanti anche dal governo italiano e dal Parlamento per il contrasto alla povertà, prevederebbe però, uso il condizionale perché è tutto da fare, prevederebbe questo concetto della reciprocità. se sei in difficoltà, ti garantisco la dignità, ma tu ti devi dar da fare. Fare in cambio qualcosa. Io intanto, insomma, torneremo su questa vicenda. Per il momento, sindaco, la ringrazio per essere stato grazie, con noi. Achille Variata è il sindaco del PD, del Partito Democratico a Vicenza. E, grazie per essere stato con noi per questa vicenda che è riassumibile così, insomma, il nuovo tentativo di un welfare non più assistenzialista ma inclusivo. Io aiuto i bisognosi, ma i bisognosi in cambio devono fare qualcosa per la comunità, altrimenti insomma è troppo comodo, rinuncino a questi incentivi. Allora, alle 8:32 minuti andiamo in pubblicità e poi avremo Sergio Rizzo del Corriere della Sera a parlare di che cosa, insomma, di questa vicenda che ha messo sotto i riflettori la figura di Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, e dai tanti incarichi, ma non è certo una cosa contra persona, ma per dire, ci sono tanti manager italiani e tante persone in Italia che detengono più centri di potere. Questo vi suscita quale tipo di reazione di scandalo, cari italiani? 800 24 00 24, ripartiamo tra poco. 24 mattino. Eccoci qua alle 8:38 minuti. Allora, cari ascoltatori, adesso è facile prendersela con Antonio Mastrapasqua, presidente dell'INPS, che ricopre anche vari incarichi. Il Sole 24 Ore oggi con Davide Colombo scrive: da visure camerali sono 9 gli incarichi che ricopre in varie società. Mastrapasqua si difende in un'intervista a Repubblica, dice: ma insomma, eccolo qui, sono il mostro. In realtà ovviamente ironizza: io sono sereno, non sono il mostro, ho questi incarichi, ma questa vicenda anche delle 25 poltrone è assolutamente una mistificazione, gente che non sa leggere neanche le visure camerali. Comunque, il tema lanciato da Mastrapasqua, che è diventato un caso politico, è un tema di cui anche Sergio Rizzo ieri ha scritto sul Corriere della Sera da qualche giorno, a dire: ma insomma, siamo il paese anche delle tante poltrone che si concentrano sotto lo stesso sedere. Sergio Rizzo, buongiorno e bentrovato del Corriere della Sera, tra l'altro autore dell'ultimo libro con Gian Antonio Stella, Se muore il Sud. Voglio salutare anche il senatore Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Perché adesso ci spiegherà, insomma, la vicenda del sindaco De Luca di Salerno è partita da voi. Sergio Rizzo, intanto, fa bene Mastrapasqua adesso a difendersi? Adesso tutti sembrano accanimento contro persona. Ma guardate, questa cosa qui noi la scriviamo da 5 anni, cioè esattamente da quando lui è stato nominato presidente dell'INPS. Ma il problema non è suo, il problema è di chi l'ha nominato e di chi non ha mai posto attenzione al fatto che questa situazione particolare in cui lui si trovava poteva creare dei problemi, perché qui ci sono anche profili di conflitto di interessi che si possono presentare in ogni istante. Quando tu sei presidente di un ente pubblico così importante e in più hai un posto di rilievo in Equitalia, in Autostrade, in una società del gruppo Telecom, piuttosto che non appunto nel CONI, cioè questa cosa doveva essere valutata attentamente da chi lo ha nominato. Purtroppo non è stato così, e non è stato così neanche in seguito. Ma forse è stato valutato, cioè nel senso che voler pensare male, sì. Attenzione, voler pensare male, sì, perché questo è il paese dove tutto si regge ancora oggi su conflitti di interessi. Quindi sappiamo benissimo che se tu non hai attrattive, no, per il potere politico, tu neanche vieni preso in considerazione. Questo è vero, ma è così dappertutto. Io ieri ho raccontato altri casi meravigliosi, no, di consiglieri regionali che vengono tranquillamente messi a capo di aziende pubbliche, tra l'altro con doppio stipendio, perché poi c'è anche questo riflesso, no? senza però considerare le implicazioni che questo può avere, cioè quanto l'incarico pubblico poi può diventare moltiplicatore per l'incarico privato e viceversa. Cioè c'è una situazione che va assolutamente chiarita. Io trovo molto ipocrita il fatto che ci siano ministri oggi che dicono io lo volevo rimuovere, ho capito, ma lo volevi rimuovere, dopodiché gli hai dato una proroga di 3 anni e in più gli hai consentito di diventare capo di un grandissimo ente, perché l'Inps adesso è fuso con l'Inpsap, lo sapete, certo, no? Certo. Chiaro. Ecco, quindi diciamo, quindi c'è questa ipocrisia di fondo della politica che veramente è inaccettabile. Sì, cioè aver creato una situazione, o comunque avere fatto una situazione che era perfettamente sotto gli occhi di tutti, adesso scoppia il bubbone, come se tutti si svegliassero. Tra l'altro ti chiederò anche questo, visto che ne hai conosciuti di persone che ricoprono anche questi ruoli, è più una questione secondo te di potere, quindi di poltrone, di ruoli, di comando o di, qualcuno mi scrive, di avidità e quindi una questione di banale denaro? No, è un sistema che tutto si tiene tutto così, perché poi funziona con gli scambi reciproci, no? Allora, tu vieni messo lì, dopodiché se a me serve di piazzare una persona in quel posto lì, allora tu mi aiuti perché puoi farlo. Ed è tutto così che funziona il sistema, non è un caso. Come arriva Massa Pasqua all'Inps? Diciamo la verità, io non metto in dubbio le sue grandi qualità tecniche, che sicuramente ci saranno, io non sono in condizione di giudicarlo, però mi dicono tutti che non è l'ultimo, d'accordo? Però lui si sa come è arrivato per ragioni politiche, perché è stato indicato e ha avuto il sostegno dell'allora Gianni Letta, che era il potentissimo sottosegretario della Presidenza del Consiglio, sappiamo tutti, uomo molto legato non soltanto a Berlusconi, ma anche, diciamo, molto interno, diciamo, alle dinamiche della burocrazia italiana. Quindi lui è arrivato lì, quel motivo lì. Ecco perché io sono convinto che nelle nomine pubbliche non bisognerebbe più seguire il criterio dell'intuito persone, come si sta facendo da sempre, dal dopoguerra, ma ci vorrebbero i bandi pubblici europei per certi incarichi, ed è l'unica garanzia, perché poi questi ruoli richiedono indipendenza, e se te ti ha messo lì il potere politico vuol dire che non sei indipendente. No, è chiaro. Poi tra l'altro teniamo conto che l'Inps anche detiene il 49% di Equitalia, quindi insomma pensioni e tasse, di cui peraltro Pasqua è vicepresidente. Io vorrei allora introdurre la questione De Luca, nel senso il senatore Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle. Allora, abbiamo appreso 2 giorni fa, 3 giorni fa, che per sentenza il sindaco De Luca, sindaco di Salerno, che è anche vice ministro alle infrastrutture, è decaduto da sindaco, per l'appunto, grazie a un'iniziativa, cioè a un pronunciamento della magistratura, per un'iniziativa sua, Cioffi, e credo anche di un paio di colleghi. Sì, un paio di colleghi, Giordano, altri due colleghi della Camera. E perché ve la siete presi? Vabbè, lei è un senatore salernitano, perché ve la siete presi? Cosa non andava bene? Cioè, del doppio incarico? Io già trovo molto triste che la magistratura debba intervenire per far sì che la politica rispetti la legge. Questo mi sembra una tristezza abissale. Però, visto che non viene fatto, abbiamo fatto un ricorso al Tribunale Civile per rispettare una legge, che è la 148 del 2011, che dice che, diciamo, la poltrona di rappresentante del governo e di sindaco sono incompatibili. E quindi, in base all'articolo, se non ricordo male, 68 del testo unico enti locali, è stato dichiarato decaduto. Sa che però De Luca dice io faccio ricorso e non... Vabbè, per carità, tutti i cittadini possono fare ricorsi in appello, ci mancherebbe, però bisognerebbe guardarsi allo specchio la mattina e mettersi vergogna. Ma non è solo il problema di Vincenzo De Luca, per carità, De Luca, io quando cittadino salernitano posso fare ricorso contro il sindaco, essendo un suo concittadino, e il problema, come si diceva prima, non si riesce a capire che se uno fa una cosa e la fa bene, e ognuno di noi facesse una cosa fatta bene, magari tante cose non succederebbero, basterebbe fare un lavoro e fatto bene. Ci sono questa storia dei doppi incarichi, una storia assurda. Voi sapete che noi del 5 Stelle siamo contro i doppi incarichi, sì. Ma è assurdo proprio il concetto, il pensiero di fare tutti questi lavori in sovrapposizione. Dice, va bene Sergio Rizzo, ci sono troppe cose che la politica fa, mettendoci i uomini, vi faccio un esempio, in commissione lavori pubblici abbiamo dovuto nominare i vertici dell'autorità per i trasporti, sì. A parte che se funzionassero bene i ministeri forse tante autorità e che è successo in queste nomine? E in queste nomine abbiamo nominato come componente una persona che è stato per 5 legislature eletto in Parlamento. Allora, siccome quando sono venuti a dircelo ci dicevano che, come giustamente è stato detto, i componenti della autorità devono essere terzi, ma terzi rispetto a chi se li nomina la politica? Cioè non si riesce a capire. Ma vi faccio un altro esempio, siccome stiamo... E perché lei ha avallato questa nomina? Ma assolutamente no. Abbiamo detto che eravamo proprio contro l'istituzione dell'autority. Una volta detto questo ci siamo opposti alla nomina, ma insomma poi i numeri hanno l'importanza, però spieghiamo queste cose in modo che magari chi deve votare, i nostri colleghi diciamo in commissione in questo caso, provino un minimo senso di vergogna, ma siccome questa cosa non fa parte delle caratteristiche tipiche di chi viene da una lunga militanza politica, diciamo. Dice in realtà passano in cavalleria. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Sergio Rizzo del Corriere della Sera, il senatore Andrea Cioffi del Movimento 5 Stelle e l'Italia delle tante poltrone occupate da una stessa persona in alcuni casi. 24 mattino. Allora, Sergio Rizzo, leggo ancora dalle dichiarazioni di Mastrapasqua oggi. Eccomi qui, sono presidente dell'INPS e vicepresidente di Equitalia per i patti parasociali, anche di Idea Fimit, sempre per patti parasociali. Questo è. E alla domanda, i collegi che presiedo sono 6. ADR Engineering, Autostrade per l'Italia, Coni Servizi, Loquenda, Mediterranea Nautilus e Urtel. Ecco qui, tutto qui, ecco il mostro, a differenza di altri che quando diventano personaggi pubblici cedono l'attività professionale alla moglie, io non l'ho fatto, ma so leggere le visure camerali e non so scrivere 2 righe per difendermi, così nasce il mostro. Ecco, Rizzo, c'è da dire che è tutto perfettamente legale, cioè queste cariche, non è che faccia un'usurpazione di, chi, di chissà cosa, no? Perché poi, questo è bene ribadirlo, però è nella legalità proprio che si... Ma è un problema di opportunità, questo è un concetto che si fatica a penetrare nelle nostre teste, no? Dove tutto, ripeto, funziona col conflitto di interessi in questo paese, quindi l'opportunità è un criterio che non viene mai preso in considerazione, cioè è opportuno che una persona che fa tra l'altro anche il direttore generale di un ospedale, no, possa fare anche presidente dell'INPS, è opportuno che questa persona abbia un ruolo importante nelle autostrade per l'Italia con concessionario pubblico, cioè tutte queste cose da noi non vengono assolutamente prese in esame quando si procede a una nomina, no? E per questo ripeto, paradossalmente lui non c'entra niente in questa vicenda, la responsabilità grave è di chi ha deciso di nominarlo. Ma tu non credi che l'opportunità debba essere stabilita per legge, visto che laddove, cioè vietarlo. In Gran Bretagna non ci sono nessun conflitto di interessi, eppure nessuno si sognerebbe mai, no, di fare il sottosegretario avendo, come è successo da noi, un'azienda che gestisce la pubblicità per i giornali, d'accordo? Ecco, in Italia abbiamo 4 leggi sul conflitto di interessi, non una, 4 ne abbiamo, eppure si verificano queste cose abominevoli, per cui è un problema proprio di cultura, secondo me, della politica, non tanto di regole. Certo, le regole sono importanti, ma il caso inglese, il caso americano, la stessa cosa, ma la Germania è la stessa cosa. In Germania non esiste una legge che vieta un parlamentare, diciamo, di avere altre attività, però ci fu un caso negli anni 70 di un elettore importante che decise di diventare parlamentare, ebbene dovette dimettersi 3 mesi perché non ce la faceva a fare 2 cose, ma perché lo guardavano tutti male poi, cioè è proprio un fatto, come dire, di sì, culturale, come dice anche un po' il senatore Cioffi, dice si fa fatica a far inserire questi tipi di discorsi. Fatemi sentire 2 ascoltatori, Francesco da Bari. Francesco, buongiorno. Sia sintetico, per cortesia. Sì, senta, io volevo dire questo, cioè noi siamo praticamente da oltre 30 anni, cioè io ho 57 anni, qui da quando mi informo di politica, che noi ci troviamo sempre di fronte a questi casi. Le scelte che vengono fatte di questi personaggi, questi boiardi di Stato, sono scelte politiche, quindi di persone pronte a un compromesso. un esempio, noi abbiamo avuto Prodi come Presidente del Consiglio e io trovo veramente aberrante che un personaggio del genere, un Presidente del Consiglio, Presidente dell'IRI, tutto quello che vogliamo, poi si è andato a testimoniare davanti ai giudici che lui le notizie sul covo di Moro le ha avute tramite una seduta spiritica. Capito, io da un personaggio del genere non potrei neanche comprare un motorino usato. Ma Francesco, non mette insieme però tante cose diverse, cioè è partito da una considerazione e poi mette insieme Moro, sedute spiritiche, Prodi. Comunque insomma la ringrazio, vorrei andare a Davide, da Davide Milano. Davide, buongiorno. Sì. Niente, per quanto riguarda la mia indignazione era questo il fatto, che comunque ormai il vaso di Pandora è scoperto, si sanno tutte le nefandezze, le porcherie, gli inciucci che fanno, e questi hanno la faccia come il loro sedere, dove si siedono su tutti quei posti e non hanno neanche la dignità di toglierseli. Questi che ormai sappiamo tutto hanno questa, come diceva poc'anzi il signore che in Germania non lo guardavano in faccia, appunto perché questa è la nostra cultura. La questione è culturale. Ci meritiamo quello che siamo, no? Ci merita addirittura. Davide, grazie. Ci meritiamo questo, Andrea Cioffi, senatore. Ci meritiamo questo. Spero di no, cioè, spero che riusciamo a ritornare insomma in persone più umane. Però parlando di alcune cose mi è venuto in mente che una volta nel regolamento dei lavori pubblici, che era un regolamento fatto nel 1895, molti anni fa, si parlava di criterio reputazionale delle imprese. Pensi che bella parola, la reputazione era scritta in una legge. Ed era molto bello che ci fosse questa parola, adesso purtroppo vorrebbe recuperarla in qualche modo. Sì, infatti l'ho detto tante volte che si tratterebbe di riprendere un pochino, per esempio, il vecchio regolamento dei lavori pubblici, però questo è il 1895, perché era fatto dove molto lì c'era già scritto tutto, insomma, lei dice. Va bene, io mi devo fermare qui, vi ringrazio, senatore Cioffi del Movimento 5 Stelle, Sergio Rizzo del Corriere della Sera, voglio ricordare ancora Se muore il Sud, edito da Feltrinelli, un libro che sta avendo molto successo, scritto con Gian Antonio Stella. Ci fermiamo qui, a domani 6:30, ritorniamo. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.